e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ben ritrovati a Cuore Denari, buongiorno a tutti. Oggi, per quello che riguarda l'aspetto soldi, parliamo di un tema che ci riguarda tutti, il conto corrente. È un mondo molto articolato, questo, le offerte bancarie sono tantissime, oggi siamo in grado di personalizzare al massimo i servizi che ci servono, ma c'è un punto che ancora spesso è oggetto di contenzioso fra banca e cliente: il costo del conto. Banca d'Italia sostiene che un conto corrente può costare anche in media in Italia 82 euro l'anno. Ci è sembrata veramente una cifra molto alta. Allora, oggi con la guida del Sole 24 Ore i tuoi soldi andremo a caccia di suggerimenti per negoziare, trattare con la banca, risparmiare e magari anche cambiare se non siamo soddisfatti. Ma indagheremo anche su un'altra notizia, lasciando da parte le banche, che ha indispettito subito le associazioni dei consumatori. Raddoppiano i costi delle chiamate da casa per i clienti TIM è il nuovo marchio Telecom che copre anche la telefonia fissa. La società cosa ha fatto? Lo ha comunicato con un annuncio pubblicato sui principali quotidiani. Lo sapevate? Allora, per tutti questi temi, pronti a confrontarvi con noi all'800 24 0024. E allora, voi riducete i costi, noi riduciamo i numeri del girovita, della pressione, dei trigliceridi, della glicemia e del colesterolo. Yeah, in due parole parliamo di sindrome metabolica, che è una condizione prepatologica che predispone a una serie di rischi, non forte rischio cardiovascolare, proprio a causa del sovrapporsi di una serie di fattori che si verificano contemporaneamente nella stessa persona. Spesso questa patologia è causata da uno stile di vita non adeguato, il sedentario che fa poca attività fisica, ha un'alimentazione squilibrata, magari ricca di zuccheri, di carboidrati raffinati, di alcol e di grassi. Allora, se vi sentite chiamati e descritti in questo profilo, è il vostro momento. 800 24 00 24. Pressione, girovita, trigliceridi, glicemia e colesterolo ce li abbiamo tutti, quindi rimaniamo nell'attualità. Noi cerchiamo, con i consigli del nostro esperto, di capire se siamo a rischio o se tutto va a gonfie vele. Conto corrente. Un'offerta volontaria al mantenimento della vostra banca. Dal Dizionario del Diavolo di Ambrose Bierce. Abbiamo rubato questa citazione, fra un po' vi dico da dove. Lo hanno definito peraltro uno degli uomini più cattivi d'America, un giornalista, uno scrittore. Ambrose Bierce comunque ha scritto anche questa cosa molto divertente, come vi dicevo, tratta dal Dizionario del Diavolo. Allora, anche se spesso molti di noi hanno la tentazione di mettere tutti i soldi dentro o sotto il materasso, abbiamo invece la quasi inevitabile necessità di utilizzare un conto corrente, quindi di avere un rapporto con una banca. Qualche anno fa, forse Nicoletta te lo ricordi, imperversava sulle pagine dei giornali la questione dei costi dei conti correnti italiani, più alti d'Europa. Poi sono arrivate le bacchettate di varie autorità, sono migliorati gli strumenti per la portabilità del conto, che è il passaggio da una banca ad un'altra. Le banche hanno preso a farsi più concorrenza anche abbattendo gli oneri sui conti correnti e creando strumenti ad hoc per determinate tipologie di cliente. Per non parlare poi di quanto siano diventati nel tempo convenienti i conti correnti online, che però ancora non convincono molte persone. Eppure, anche se ci sembra di avere delle condizioni molto vantaggiose, spesso scopriamo che ci sono ampi margini di trattativa con la banca per migliorare ancora queste condizioni. E anche di questo si occupa oggi il secondo volume de I tuoi soldi, corso pratico di educazione finanziaria in edicola, con il Sole 24 Ore che si occupa di conto corrente e strumenti di pagamento a 360 gradi. Si parte da questa osservazione, lo tratta dalla guida. Per chi non conosce nulla del mondo del credito, anche i suoi strumenti più semplici, come il conto corrente bancario o postale, le carte di pagamento, gli assegni e bonifici, possono trasformarsi in un'occasione di perdita di soldi e di frustrazione. E allora voi cosa ci raccontate? Quanto costa il vostro conto corrente? Qual è stato il responso del vostro ultimo estratto conto? 800 24 00 24, ditecelo e noi lo racconteremo a Nicola Borzi del Sole 24 Ore, che praticamente ha scritto il 95% della guida oggi in edicola. C'è anche una mia paginetta sul fondo, quel 5% è mio, così tanto lo dico, ma solamente no, ma per dire quanto ha lavorato lui. Però l'hai sollevato, del 5% è stato sollevato. Vi assicuro che era assolutamente necessario. necessario. Ecco, perché qua sono arrivato all'ultimo momento dell'ultimo giorno utile. D'altronde ti sei occupato veramente di tutto il mondo conto corrente, allora oggi almeno in radio ti faremo dare una mano da Anna Vizzari di Altro Consumo. Grazie. Che torniamo a salutare. Anna, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, come vi ho anticipato, nella seconda parte della trasmissione, nella parte di denari, ci occuperemo anche di un altro focus, un'altra notizia destinata ad indispettire i consumatori, riguarda la telefonia. Raddoppiano i costi delle chiamate da casa per i clienti TIM, che come vi dicevo prima è il nuovo marchio Telecom che copre anche il fisso. Voi ve ne siete accorti? C'è un annuncio in questi giorni sui principali quotidiani italiani. Ecco come comunicano le società. Dobbiamo leggere i giornali e guardare gli annunci pubblicitari. Ne parleremo però dopo. Noi cominciamo subito con il mondo conto corrente, il mondo conti correnti. Avete mai calcolato quanto pagate all'anno per il vostro conto? Sapete quali sono le voci di spesa che compongono questa cifra? Oppure non ve lo siete mai chiesto, perché a guardare l'estratto conto chiaramente ogni iniziativa di comprensione vi scoraggia? Nicola, d'altronde è così, il documento è molto complicato. Lo abbiamo detto più volte, anche se questo lavoro non ci piace molto, dialogare con il mondo delle banche è necessario, però occorre capirne, impararne il linguaggio. Sì, è così, occorre impararne il linguaggio, e il linguaggio parte proprio dal conto corrente. Il conto corrente, come abbiamo cercato di spiegare nelle parole e con i termini più semplici a disposizione, è la porta d'ingresso a tutto il settore della finanza, del risparmio gestito, del credito. Senza il conto corrente, che sia bancario, postale o che sia una carta conto, non si può pensare veramente di gestire il proprio denaro oggi. Anche perché, questo va ricordato, esistono anche limiti di legge all'utilizzo del contante. Chi viola questi limiti di legge all'utilizzo del contante si espone a pesantissime situazioni. Certo. Facci un veloce biglietto da visita della guida di oggi, poi andiamo ai temi più caldi che riguardano il rapporto tra cliente e banca quando si tratta di gestire il proprio conto corrente. Ma questa guida, come tutte le guide che seguiranno, inaugura la seconda fase del corso pratico di educazione finanziaria dei tuoi soldi, che sarà in edicola fino al 31 maggio ogni martedì col Sole 24 Ore. È composta da una serie di capitoli che cercano di spiegare molto semplicemente che cos'è un conto corrente, come funziona, quali sono le tipologie di strumenti a disposizione sul mercato e come si sceglie il conto adatto, come vanno considerati gli oneri e i costi di questo tipo di strumenti. E poi c'è una parte finale dedicata agli altri strumenti di pagamento, cioè alle carte, ai bonifici, agli assegni, che vuole essere molto molto basica per partire proprio dall'utilizzo di questi strumenti e da come si impiegano. In più, il capitolo finale riassuntivo è quello che ci dà le istruzioni per l'uso, con le domande dei lettori, come si legge l'estratto conto e la tua pagina, e ovviamente. E la pagina di Deborah. Il microfono Dulcis aperto. Esatto. No, tra l'altro, per tutte le questioni finanziarie che vi stanno più a cuore, voi segnalateci qualche argomento particolarmente scottante per voi e per la vostra famiglia. Noi abbiamo a disposizione questa rubrica, si chiama Microfono Aperto. Io trasferisco proprio tutte le perplessità degli ascoltatori sulle pagine del Sole 24 Ore. Temi finanziari a 360 gradi, troveremo il modo anche di segnalare la vostra battaglia appunto su queste pagine. Allora, io per parlare di conti correnti, ieri guardando la guida, ho scelto di affrontare in particolar modo il tema come ridurre i costi dei conti correnti, pagina 38, e la prima cosa che mi è balzata all'occhio è questa frase riportata in rosso, Nicola, che ci racconta che secondo le statistiche della Banca d'Italia nel 2014 i conti bancari in Italia costavano in media oltre 82 euro l'anno, per quelli postali la spesa media era di 53,5 euro, alla faccia del fatto che i costi sono diminuiti. È davvero questa la situazione? Perché la situazione è questa, e ce lo racconta la Banca d'Italia, che ogni anno fa un'analisi statistica su un campione enorme di conti, ne ha esaminati mi sembra oltre 16.000. E la situazione è questa, ma è questa diciamo in una ipotesi di utilizzo regolare del conto, perché in realtà se l'utilizzo del conto viene effettuato in maniera che non è indicata o non è allineata con la tipologia del conto, con il canale anche di utilizzo del conto, ad esempio se si utilizza un conto che è prevalentemente online, recandosi sempre allo sportello, i conti esplodono, i costi, ma esplodono ancora di più questi costi in realtà se si fanno determinati tipi di utilizzi che prevedono servizi aggiuntivi, o addirittura se questi utilizzi comportano scoperti e affidamenti di conto, perché a quel punto veramente le spese esplodono. Senza considerare poi che ci sono tipologie di conti come il cosiddetto conto ordinario che hanno caratteristiche che portano a costi addirittura molto superiori a questo. In realtà esistono strumenti che sono a disposizione di varie fasce di pubblico, ma anche del pubblico normale, come il conto corrente di base, che sono praticamente sconosciute, esatto, perché non sono state mai comunicate con la dovuta trasparenza anche, e che consentirebbero di abbattere i costi in maniera notevole. Esatto, allora daremo qualche indicazione su quale potrebbe essere il profilo adatto a chiedere alla propria banca la sottoscrizione di un conto corrente di questo tipo. Adesso devo andare a sentire il traffico, poi chiedo ad Anna Vizzari di prepararsi per capire se Altro Consumo ha a disposizione qualche indagine un po' più recente di quella della Banca d'Italia, che risale al 2014, le loro prove sul campo, che cosa ci raccontano rispetto al costo dei conti correnti, perché Altro Consumo è proprio specializzata anche in questo, di mandare i propri funzionari ed esperti così un po' in incognito in banca per capire un po' come si comporti in banca come in tante altre situazioni. Intanto la parola naturalmente vorrei passarla anche a voi all'800 24 00 24. Cosa racconta il vostro ultimo estratto conto? A tra poco. Cuore e denari. Se Dio potesse solo darmi un segno, per esempio intestandomi un conto in qualche banca svizzera. Woody Allen. Già, se potesse darlo anche a noi, noi saremmo qua ben disponibili e contenti. Sempre però indicando sul quadro RV della dichiarazione dei redditi. Attenzione, se no dobbiamo chiamare Fabrizio Vedana, fare la voluntary disclosure e quant'altro. Anna Vizzari, allora, Nicoletta, speriamo che faccia le cose. La tua tentazione te l'ho già fatta. Che faccia le cose per bene. Allora, Anna Vizzari, costi dei conti correnti, gli ultimi responsi di Altro Consumo quali sono? Vi torna questo conto fatto dalla Banca d'Italia, 82 euro in media l'anno per la gestione di un conto corrente? Tra l'altro, se parliamo di un conto medio, possiamo immaginare che ci sia anche chi spende appunto molto di più rispetto a questa cifra e chi invece riesce a risparmiare molto. Certo, assolutamente. Allora ricordiamo che Altro Consumo già dal 2002 ha una banca dati sul suo sito altoconsumo.it che proprio raccoglie le informazioni sui conti correnti, quindi diciamo che le nostre indagini sono periodiche, vengono fatte ogni giorno. Posso confermare che effettivamente il dato indicato da Banca d'Italia in realtà dice una parte comunica una parte dei costi, nel senso che per esempio non tiene conto del fatto che se le giacenze sono pari o superiori ai 5.000 euro ci sarebbe anche da pagare per esempio il bollo. Non tiene conto appunto di come poi effettivamente viene utilizzato il conto, come già stato detto da Nicola Bozzi prima, se si va molto allo sportello ovviamente il costo aumenta. Però detto questo, se si fa una simulazione su un profilo medio, diciamo così, di utilizzo senza per esempio avere neanche il conto titoli collegato al conto corrente, posso dire che la nostra banca dati dà un range molto più ampio di quello appunto che può dare il costo medio indicato da Banca d'Italia, per cui il costo va annuo di un conto corrente va dagli 8 euro del nostro migliore acquisto fino addirittura ai 261 euro del peggiore, quindi in realtà c'è un range molto ampio e ci sarebbe anche possibilità quindi di poter risparmiare qualcosa. Allora guarda, andiamo subito a dare qualche indicazione pratica in questo senso. C'è già Siliano dalla provincia di Grosseto che non ne paga più di 250, ma paga secondo noi una cifra molto alta, per cui diamogli qualche input per poter andare a negoziare con il proprio direttore, il proprio referente in banca. Siliano, benvenuto. Sì, buongiorno e grazie per l'invito. Saluto le conduttrici Nicoletta e Deborah. Ottimo, eccoci qua. Senta, proprio stamani io sono andato nella mia banca. Ottimo, fresco. Mentre tornavo in macchina ho sentito la trasmissione, per cui ne ho approfittato immediatamente. Dunque, la mia banca, io ho portato il mio estratto conto, la mia banca mi ha detto, ma no, è un conto vecchio e va benissimo così praticamente. E certo. Ecco, io pago 106 euro all'anno. Che tipo di operatività, Giuseppe? Quali sono le operazioni più frequenti che fa? Non ne ho tanta operatività, assolutamente. Anche io ho un bancomat e poi assegni ne faccio pochissimi, adopero soprattutto il bancomat. Un bonifico, per esempio, sa quanto le costa? Ma dunque, ho qui l'estratto conto. Vabbè, adesso intanto che cerca Siliano, andiamo un po' a capire con Nicola che cosa ti suggerisce il caso di Siliano. Vediamo che ridevi sotto i baffi. Che non hai ha detto una cosa fondamentale, è un questo conto ascoltatore vecchio. Che saluto, che è un conto vecchio. In questo caso, come abbiamo spiegato, come dice anche la Banca d'Italia, i conti che hanno un'anzianità superiori ai 5 anni, quando si avvicinano ai 10, cominciano a essere onerosi. Perché onerosi? Perché nel frattempo l'evoluzione e la concorrenza tra gli istituti ha messo in circolazione altri conti, magari con le stesse caratteristiche o neanche con caratteristiche migliori, che magari costano molto meno. E non sia mai che te lo dice. Esatto, la banca non ve lo dirà mai, quindi quando non fanno l'annuncio pubblicitario sul giornale per dire attenzione, voi che siete i titolari di conti vecchi, aggiornateli, rinfrescateli. Quindi quando un conto comincia ad avere più di 5 anni, quello che conviene fare è andare nella propria banca e chiedere quali sono le offerte più recenti, perché molto spesso costano molto meno e senza avere problemi si può traslare un conto da un altro. Anna Vizzari, adesso immaginando di poter visualizzare l'estratto conto di Siliano, non ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma generalmente sulla base delle voci che compongono uno estratto conto, quali sono quelle che hanno proprio un costo incomprimibile, quello sul quale non si può trattare, e quelle voci invece con le quali, sulle quali si può negoziare con il direttore di banca? Guarda che c'è Nicoletta che prendo appunti perché già domani vado con Girovita, la sindrome metabolica. Altro che 5 anni, io sarà 30 anni. Se non lo guardi, e chi è? Cioè, dai, saranno andati in pensione 3 direttori di banca. No, ma nel senso, io da quando sono a Milano sono cliente nella stessa banca, ho capito che la fedeltà non paga, ma poi fai mettere, quindi andrò. Ok, allora Anna, prendo Vizzari, appunti. Allora, voci non trattabili e quelle negoziabili. Allora, sicuramente quello che fa un po' pensare dal caso raccontato è che si vada in banca e si dica al cliente il conto è vecchio, per forza costa 106 euro l'anno, senza che si faccia neanche un'offerta migliore, perché sicuramente ci scommetto la banca nel suo portafoglio un conto che ha delle condizioni sicuramente migliori, quindi sicuramente c'è la possibilità di trattare su vari aspetti, ma sia sulle spese fisse, come può essere il canone mensile del conto corrente, sia su quelle variabili. In realtà molto spesso basta far sentire la propria voce per insomma ottenere qualcosa. Poi, per carità, sicuramente il consiglio principale da dare è quello di confrontare le condizioni sul mercato e far valere la concorrenza, per cui se si torna in banca con l'offerta di un'altra banca migliorativa, sicuramente il direttore si convince insomma più facilmente. Anna Vizzari, allora, ammettendo che Siliano non riesca a raggiungere grandi risultati negoziando direttamente con la propria banca, a questo punto si convinca nel cambiare. Oggi abbiamo la nuova portabilità, quella che ci darebbe la possibilità di cambiare banca in 12 giorni lavorativi. Allora, rispetto all'ultima volta in cui ci siamo sentite, ci sono delle novità? Il processo è definitivamente si può chiudere in 12 giorni oppure ancora aspettiamo altri adempimenti da parte del sistema bancario per accontentare le persone che chiedono questi trasferimenti? Purtroppo devo dire che la situazione non è cambiata, nel senso che manca ancora il famoso decreto attuativo del Ministero dell'Economia che dovrebbe rendere operativo l'indennizzo che il cliente può chiedere alla banca in caso di ritardi, quindi nel caso in cui il trasferimento venga oltre i 12 giorni previsti alla legge. E devo anche dire che purtroppo quando si va in banca a fare la chiusura del conto, la procedura standard che viene a essere presentata al cliente è quella normale della chiusura del vecchio conto e l'apertura del nuovo. Il famoso modulo che dovrebbe essere compilato per fare il trasferimento non viene presentato e fornito al cliente, per cui ovviamente se il cliente non sa e non conosce, difficilmente la procedura diventerà operativa. E sicuramente il fatto che non ci sia la possibilità di chiedere un indennizzo come previsto dalla legge fa sì che la situazione si protragga così nel tempo. Ecco. Però insomma, o 12 giorni, 20 che siano, io sono certa che se Siliano andasse in banca, nella sua banca, pronto a dire guardi, mi presentala, mi dà tutta la modulistica necessaria per poter andarmene via, non so se sollecitasse solo così. In realtà non funziona così. Lo so, devi andare nella nuova banca. Esatto, però infatti, solo come deterrente, come sollecitazione per la banca. Se il mio conto vecchio, c'è una novità. Ecco, esatto. Lo rinfresco io andando a vedere un'altra parte. Vede quella banca lì davanti? Sono certa che qualche cosa la vecchia banca può fare. Insomma. Sono molto agguerrita. Domani porto Nicola con me in banca. Andiamo. Sono certa che qualcosa succede. Una del cosa sole però 24 potresti ore. Farla. Franco da Bergamo, lei ha un conto online. Esatto, velocemente, buongiorno. In 10 secondi, siccome tanti hanno paura nell'aprire un conto corrente online, può raccontare a tutti che a lei non è successo niente di drammatico da quando l'ha fatto? Allora, io ho questo corrente online da circa 3 anni, posso assicurare che il costo è completamente azzerato, quindi non c'è bisogno di controlli, verifiche, estratti conti. Se lo può andare a controllare ogni giorno e vedere tutte le operazioni appunto che lo movimentano. Grazie Franco, noi abbiamo intanto raggiunto il limite massimo della nostra prima parte di Cuore Denari, andiamo a sentire il giornale radio e poi ritorniamo in tempo brevissimo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta allora con Nicola Borzi del Sole 24 Ore, Danna Vizzeri di Altro Consumo. Completiamo il nostro ragionamento sul tema costi dei conti correnti. Abbiamo lanciato la guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, I tuoi soldi, il secondo numero del corso pratico di educazione finanziaria, oggi dedicato a gestire conti e pagamenti. Il nostro focus è proprio sulla riduzione dei costi dei conti correnti. Abbiamo scoperto, lo dice la Banca d'Italia, che in media i conti correnti italiani costano 82 euro l'anno, ma naturalmente possiamo attivarci per risparmiare un po', cominciando per esempio con il chiudere quello vecchio. Nicola Borzi, appunto, leggevo che nel 2013 gli italiani hanno chiuso quasi 4 milioni di conti correnti bancari nel nostro paese, sì, per cui non è che siamo proprio così inamovibili. No, non siamo inamovibili, bisogna considerare che i conti correnti bancari postali sono alcune decine di milioni e che questo è un dato che si diciamo desume statisticamente da delle rilevazioni fatte dall'Unione Europea, perché in realtà, questo è anche clamoroso, dati sulla mobilità dei conti correnti non ce ne sono ufficiali. Allora, 800 24 00 24, gli ultimi minuti di tempo per le vostre telefonate su questo tema. Vi abbiamo chiesto se avete dato uno sguardo all'ultimo estratto conto, qual è stato il responso, quanto vi costa la vostra relazione più o meno d'amore con la vostra banca. Allora, in realtà abbiamo visto che i conflitti sono sempre tanti, c'è chi quando fa questa scoperta poi non sa bene come gestire questo problema. Cosa faccio per ridurre il mio conto corrente? Come vado a negoziare con il direttore di banca? Come faccio a cambiare? Ci diceva prima Anna Vizzari, Nicola Borzi, che per esempio un modo per risparmiare potrebbe essere quello, se abbiamo una bassa operatività, un relativo numero di operazioni, di chiedere alla banca se ci fa sottoscrivere un conto di base. Ci sono poi anche i cosiddetti conti a pacchetto. Quali sono i più convenienti secondo lei e in base a che cosa lo dobbiamo giudicare? Allora, devo dire che il conto base, il quale è nato proprio come prodotto di inclusione finanziaria, che dovrebbe avere dei costi proprio bassi per poter appunto permettere l'inclusione, devo dire che poi dalle rilevazioni si dimostra essere, nonostante abbia un costo fisso, quindi onnicomprensivo di tutte le operazioni, si dimostra essere in alcuni casi, anzi nei casi proprio di operatività semplice, più costoso di alcuni conti normali, soprattutto se utilizzati online. Quindi attenzione anche a questo, è vero che comunque un conto base può essere confrontato più facilmente proprio perché il canone, diciamo così, onnicomprensivo di tutte le operazioni che si fanno, dice anche qual è il costo totale del prodotto, quindi è più facile il confronto, basterebbe sostanzialmente visionare i foglietti sui siti delle banche e verificare qual è il costo del conto base. Però certo che essendo, come diceva lei, un conto di inclusione finanziaria, è chiaro che è destinato ad una determinata tipologia di cliente che forse tutto questo confronto sui foglietti informativi, cercandoli esatto, su internet, non lo può fare. No, qui infatti sarebbe necessario proprio un intervento anche dell'autorità di controllo per far sì che questi canoni siano effettivamente dei canoni di inclusione finanziaria, cioè dei costi comunque bassi, perché quelli che ci sono attualmente sicuramente non favoriscono l'inclusione. Tra l'altro il costo quanto è basso, Anna Vizzari? Allora, noi abbiamo verificato che ci sono il prodotto che costa meno, costa 24 euro. 2 euro al mese. E si arriva a 90 euro anche. Ah, però, a faccia dell'inclusione finanziaria. È per questo che dico appunto attenzione, perché in realtà potrebbe costare anche molto di più di un prodotto normale. Nicola Borzi, invece il conto a pacchetto? Ah, il conto a pacchetto è un'ottima scelta, soprattutto se si hanno determinate caratteristiche e se lo si utilizza come sempre nelle modalità che sono previste dal contratto. È chiaro che anche all'interno dei conti a pacchetto quelli più convenienti in assoluto sono quelli online. Occorre però veramente verificare preventivamente, prima di scegliere, quali sono le proprie caratteristiche, cioè andare a vedere qual è la propria storia di rapporto con il mondo del credito e controllare proprio fattivamente se si rientrano all'interno di determinate tipologie. Si fa una lista, faccio 15 bonifici l'anno, 18 trasferimenti di... come sempre in questi casi il punto di partenza fondamentale è la conservazione della documentazione del passato, cosa che bisogna sempre ricordare, cioè mai gettare documentazione, a parte perché ci sono rischi di furti di identità, ci sono situazioni nelle quali chi si impossessa dei documenti può utilizzarli anche per commettere dei reati, ma poi perché questi documenti in realtà ci consentono di avere sotto mano le nostre caratteristiche. È vero che la banca è tenuta a conservarli per 10 anni, quindi per 10 anni noi sappiamo che se ci rivolgiamo alla banca loro ci devono produrre... Però se lo chiediamo ci fa pagare qualcosa, tanto vale che ce lo teniamo noi. Ci fa pagare molto, non qualcosa, conviene tenerli. Allora, l'ultima, sì, tra l'altro Nicoletta, ci leggiamo anche quel messaggio di quell'ascoltatrice per la quale temiamo il furto d'identità. Monica ci scrive: mi hanno aperto un conto a mia insaputa. Cosa posso fare? Un messaggio su WhatsApp. Mi sembra assolutamente impossibile che qualcuno apra un conto a insaputa del titolare, perché come minimo c'è il deposito della firma e il controllo anche in base alle norme antiriciclaggio della documentazione. Le possibilità sono due: o si è trattato di un furto d'identità e in questo caso bisogna correre a denunciare alla polizia, postale. Alternativamente potrebbe essere che l'ascoltatrice non abbia ben presente che magari ha firmato un contratto, ad esempio per una carta di credito, alla quale era allegata la possibilità di apertura di un conto, cosa che magari non ha verificato. Allora, ci sarebbero tante cose ancora da dire. Sento velocemente Giuseppe da Milano, al cui daremo due suggerimenti per agire tempestivamente per risparmiare sul suo conto. Giuseppe, buongiorno, veloce, grazie, che devo poi fare un cambio rapidissimo di argomento. Buongiorno, velocissimo. Nella mia banca, fino a quando la posizione globale diceva 75.000 euro, il costo era zero. E una volta vagliata questa somma, superata questa somma, cioè scesa, ho avuto qualche disavventura a livello di borsa, sono 14 euro al mese. Cambiare banca adesso è un problema, perché ho delle azioni, ho del mutuo. Deve trasferire tutto il conto, tutta la sua vita bancaria. Il famoso trasferimento del conto titoli, che è uno degli scogli principali del trasferimento conti. Soprattutto se ci abbiamo dentro magari una signora Parmalat incagliata lì e nessuno ci fa spostare. Anna Vizzari, due indicazioni. Perché ghignava intanto? Sentivo già che rideva. Che ghignava lì sotto. Ghignavo perché effettivamente ai clienti, diciamo così, tra virgolette, buoni, come vengono considerati. Che è il paradosso, no? Tu più soldi hai, meno la banca ti fa spendere. Ma è così. Ed è così anche per gli strumenti di pagamento. Ci sono delle carte di credito che non hanno costo, sono zero, appunto per chi ha un'operatività sul conto superiore a un certo livello, potrebbe essere 50.000 euro, 75.000 euro. Allora, detto questo, comunque le condizioni devono essere, anche le modifiche delle condizioni, ricordiamolo, devono essere comunicate personalmente al cliente. Non può succedere, come ho sentito prima, quello che è successo con Tim, nel senso che c'è un annuncio pubblicitario sui principali giornali per la modifica. Grazie per l'assist, che tra poco apriremo il nuovo tema. In questo caso ricordiamo che il testo unico bancario dice che il cliente deve essere avvisato personalmente almeno 60 giorni prima della modifica, e il cliente ha la possibilità di recedere alle vecchie condizioni senza costi aggiuntivi. Quindi già questo è comunque un principio basilare. Seconda cosa, secondo me Giuseppe può cambiare per risparmiare qualcosa, deve armarsi di santa pazienza, litigare un po' e soprattutto imbarcarsi in un'istruttoria, in un'altra fila che richiederà tempo e naturalmente il tempo dovrebbero essere i 12 giorni di cui abbiamo parlato. Ma se in anche realtà, con il conto titoli avesse bisogno di un po' più di tempo No, perché in realtà appunto il famoso decreto dovrebbe anche verificare la procedura di trasferimento del conto titoli, ma non c'è ancora il decreto attuativo. Quindi benissimo, il conto titoli avvisateci quando è pronto che vi richiamiamo entrambi. Grazie ad Anna Vizzari, a Nicola Bozzi, autore di Gestire i conti e pagamenti, i tuoi soldi, corso di educazione finanziaria con il Sole 24 Ore oggi. Adesso rapido cambio di tema. Marco, ma mi ami? Ma quanto mi ami? Mi pensi? Ma quanto mi pensi? Oh, scusa, un'altra telefonata, aspetta. Ciao Andrea, mi ami? E quanto mi ami? E allora, chi non se lo ricorda questo spot, i vecchi tempi delle lunghe chiacchierate al telefono di casa? Questo celebre spot risale agli anni 90, all'epoca il gestore telefonico era unico, la SIP poi ha cambiato nome, si è passati al mercato libero, oggi molti addirittura decidono di non avere più in casa neanche il telefono fisso, drastici fino in fondo. I clienti della vecchia SIP, poi Telecom, sono però rimasti in molti e a tutti questi italiani interesserà sapere che raddoppiano i costi delle chiamate da casa per i clienti TIM, che è il nuovo marchio Telecom che copre anche il fisso. Lo ha detto la società comunicandola all'Universo Mondo con un annuncio pubblicato sui principali quotidiani. E allora, un possibile raddoppio dei costi di questo tipo è possibile, appunto, di punto in bianco? E lo chiediamo ad un legale di un'associazione dei consumatori, ADUC. Buongiorno all'avvocato Emanuela Bertucci. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, velocemente, 3 minuti per chiarire questa notizia, avvocato Bertucci, poi ci torneremo con un altro programma ad hoc, visto che questa novità parte a regime dal 1 aprile, quindi interpelleremo anche la società. Adesso abbiamo preparato al volo questo piccolo approfondimento perché ci ha incuriosito soprattutto la modalità con cui Telecom l'ha fatto. Certo che è importante segnalare la notizia a tutti i clienti, ma si può fare con un annuncio pubblicitario o si deve fare una comunicazione diretta? Va fatta una comunicazione diretta che deve essere sia in bolletta, non come le pubblicità, diciamo, che di solito si trovano nelle bollette con 4-5 pagine, ma con una comunicazione dedicata. E in più TIM Telecom deve non limitarsi a fare gli annunci sui giornali, ma anche inserire nella home page del proprio sito in grande evidenza un annuncio apposta. Ora, in linea di massima, questa è una cosa che si può fare, nel senso che le condizioni economiche di un servizio di telefonia possono cambiare. La differenza è, per TIM Telecom, come correttamente avete detto, già SIP e quindi già monopolista, diciamo, della telefonia, la situazione è un po' diversa, perché Telecom è attualmente il concessionario del servizio universale di base di telefonia, cioè la telefonia è considerata uno di quei tipi di servizi quasi essenziali che devono essere resi a tutti i cittadini a dei prezzi accessibili, e su questo punto effettivamente delle perplessità ci sono. Perché fondamentalmente Telecom ritiene oggi che sia antieconomico per lei il servizio universale, e ha iniziato un braccio di ferro che è iniziato qualche anno fa con la Agcom per cedere questo servizio universale. E insomma, quindi, poi questo braccio di ferro si traduce anche in oneri maggiori per i clienti della società. In un minuto, avvocato Bertucci, ci dice che cosa può fare l'utente a cui intanto sia sfuggita questa comunicazione? Ci sono ancora delle settimane di tempo naturalmente per informarsi, lo faremo noi anche dalla radio. È un raddoppio in piena regola degli oneri, il mercato è questo, la società può naturalmente fare quello che vuole, ma se un cliente non accetta questa nuova condizione, cosa può e cosa deve fare? Deve e può cambiare gestore telefonico senza alcun costo, non potranno essere addebitate penali, oppure recedere dal contratto. Recedere entro ovviamente il giorno prima al 1 aprile, quindi entro la fine di marzo. È possibile farlo con una raccomandata, è possibile andare da un altro gestore e cambiare gestore telefonico, e questo provvederà poi a comunicare a Telecom la disdetta del servizio. Quindi, ecco, il suggerimento per tutti è: occhio, verificate i vostri costi e iniziate a fare valutazioni di mercato per verificare se ci sono offerte migliori rispetto a questo, che non è un raddoppio, è quasi una triplicazione, perché ecco, raddoppiano. Aspetta. I costi delle telefonate da 10 a 20 centesimi, ma ogni chiamata ha uno scatto alla risposta, esatto, di 20 centesimi, per cui di fatto il primo minuto di chiamata mi costa 30 e non più 10, quindi hai capito, dire che sono triplicati. Che bella sorpresa nell'uovo di Pasqua che ci fanno trovare. Ecco, grazie avvocato Bertucci, la richiameremo presto per tornare nel merito di questa notizia, e ancora una volta dovremo riparlare degli altri contenziosi, non di quelli con la banca, ma con i servizi delle telecomunicazioni, che pure è un mondo, davvero una giungla a dir poco. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Allora, scopritevi la pancia, puntata dedicata a chi ha il girovita un po' morbido, ai livelli di colesterolo, quello buono, un po' bassi, ma anche trigliceridi, glicemia fuori norma. Sono tanti i numeri che impattano sulla nostra salute. Debora, nella prima parte della trasmissione, ci ha insegnato a ridurre i costi. Noi adesso tu prima fai qualcosa per il mio girovita, gentilmente. Che è perfetto. Sì, insomma, oddio. Allora, quasi come il mio conto corrente. 800 24 0024, continuiamo a dare i numeri. Ci sono numeri che sono molto importanti per la nostra salute, che è bene conoscere per capire se siamo in regola oppure in una condizione di ipotetico o possibile rischio. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi la dottoressa Patrizia Pasanisi, che è medico, epidemiologo e ricercatore presso la Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Allora dottoressa Pasanisi, noi diciamo sempre che prevenire è meglio che curare. Oggi parliamo di tanti valori, di tanti parleremo di pressione, parleremo di colesterolo, di trigliceridi, parleremo del girovita, tanti indicatori, tanti numeri importanti per la nostra salute. In due parole vogliamo parlare della sindrome metabolica. La sentiamo, no, spesso nominare, è una condizione che ci espone ad un rischio cardiovascolare molto elevato, ma vogliamo dare una definizione? Ma la sindrome metabolica è una condizione dismetabolica, appunto, caratterizzata dalla presenza di almeno tre fattori di rischio metabolico, che sono appunto, e poi li vediamo chiaramente in dettaglio, avere appunto il girovita morbido, come avete detto voi all'inizio, e poi daremo i valori precisi, avere i trigliceridi alti, essere ipertesi, avere la glicemia un pochino alta e avere il colesterolo buono, cioè il colesterolo HDL basso. Se si hanno tre di questi fattori di rischio, si ha appunto la sindrome metabolica, che è in pratica la condizione dismetabolica più importante tra i vari fattori di rischio, che predispone all'incidenza, diciamo a un aumento della frequenza delle malattie croniche legato all'età. Quindi è il principale fattore di rischio metabolico per le malattie croniche tipiche delle popolazioni adulte dei paesi occidentali. Allora, già che tutti noi abbiamo un peso che ci piace o no, a norma, un po' leggermente fuori norma, trigliceridi, pressione, glicemia, colesterolo, ce li abbiamo tutti? 800 24 0024, abbiamo anche a disposizione il nostro straordinario numero verde di un'esperta pronta a darci suggerimenti e consigli. Tra l'altro, dottoressa Pasanisi, la sindrome metabolica si può evitare, no? Non è un regalo degli anni, quanto, ecco, la conseguenza di uno stile di vita un po' poltronesco, non cialtronesco. Il termine è proprio giusto, nel senso che la sindrome metabolica è legata ad uno stile di vita caratterizzato da scarsa attività fisica, quindi appunto stile di vita poltronesco, associato ad un tipo di alimentazione non proprio ideale, quindi un'alimentazione assolutamente ricca di zuccheri, in particolar modo di zuccheri semplici, che derivano fondamentalmente dal consumo di cibi che alzano la glicemia molto rapidamente. Quindi non solo lo zucchero bianco, ma anche il pane bianco, anche le patate, il riso bianco, tutti i prodotti industrialmente raffinati, diciamo così, e anche da un'alimentazione ricca in grassi, in particolar modo grassi saturi, quindi un'alimentazione molto animale. Diciamo un pattern alimentare occidentale predispone, se associato a scarsa attività fisica, all'insorgenza di questa sindrome metabolica. Considerate che nei paesi, diciamo, nella popolazione adulta dei paesi occidentali, circa tra il 20 e il 40% degli individui adulti hanno la sindrome metabolica, e se considerate che è un importantissimo fattore di rischio per il diabete in primis, ma per le malattie cardiovascolari, ma anche per altre patologie importanti, per diversi tipi di tumori, per le demenze, per le steatosi epatiche, voi capite quanto cercare di controllare, di far regredire la sindrome metabolica sia importante. Sicuramente molti di noi avranno tentato di correggere di questi fattori di rischio, e quindi in presenza di livelli pressori un po' elevati o di colesterolo un po' borderline avranno cercato di muoversi un po' o di mettersi a dieta un pochino più a stecchetto, magari riducendo alcuni alimenti a favore di altri. Questa è la buona occasione per fare anche un bilancio e quindi confrontare se le nostre scelte hanno avuto dei risultati oppure sono state fallimentari. 800 24 00 24. Dottoressa, il National Cholesterol Education ha stabilito i criteri diagnostici per identificare la sindrome metabolica, no? Come lei ha anticipato, nella stessa persona ci devono essere tre o più dei seguenti disordini, e quindi li abbiamo citati, no? Il peso, trigliceridi, pressione, glicemia, colesterolo, parliamo di quello buono, fuori norma. Allora, Io partirei, io glieli leggo ad uno, lei ce li traduce, esatto, cercando di farci capire a che cosa fanno riferimento, qual è la loro funzione e soprattutto che cosa può far muovere questi valori. Iniziamo da una parola che sembra un po' uno scioglilingua, che fa riferimento ai trigliceridi, ipertrigliceridemia, sembra esatto, supercalifragilisticexpialidoso, sono grassi i trigliceridi, ma che cosa ci dicono e che cosa soprattutto incide sui trigliceridi? Quale dieta ricca di grassi, ricca di alcol oppure l'attività fisica che è carente? Ok, allora intanto i trigliceridi, come ha detto lei, sono dei grassi che rappresentano un pochino la riserva energetica del nostro organismo, ok? Sono utilizzati dal nostro corpo come scorta di energia, quindi vengono fondamentalmente immagazzinati nel tessuto adiposo, ma si trovano anche nel sangue in modo circolante. Una piccola parte di questi trigliceridi viene prodotta dal fegato, per il resto la maggior parte viene accumulata soprattutto attraverso la dieta, ok? Sì. I valori, diciamo, considerati tra virgolette fattore di rischio metabolico all'interno della definizione di sindrome metabolica sono trigliceridi di livelli uguali o superiori ai 150 mg decilitro, e questo è il valore che dobbiamo tenere come campanello d'allarme per quanto riguarda questi grassi. Cosa fanno? Da che cosa derivano? Sicuramente sono legati al sovrappeso e all'obesità, ok? Dipendono dal consumo di alcol, ma dipendono in modo particolare da un'alimentazione estremamente ricca in quegli zuccheri semplici di cui ho accennato prima. Quindi un'alimentazione molto ricca in zuccheri semplici, anche ricca in fruttosio, quindi non soltanto in saccarosio, cioè il normale zucchero appunto che utilizziamo in cucina, ma anche ricca in fruttosio. Considerate che lo sciroppo ad alto contenuto di fruttosio e glucosio, lo sciroppo di mais è contenuto nella maggior parte dei prodotti industriali che troviamo oggi. Anche un eccessivo consumo di fruttosio può favorire l'aumento appunto dei trigliceridi. Ovviamente un aumento dei trigliceridi nel sangue comporta un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, ovviamente. Questo è il motivo per cui bisogna cercare di modificare la propria alimentazione spostandosi su un'alimentazione più povera in zuccheri semplici, ok, e anche più povera, diciamo, di grassi. Questo è il e anche un trucco, riducendo anche magari gli alcolici. Assolutamente sì, ecco, perché che questo anche dall'alcol, vero, sì. Certo, allora, arriviamo, se volete saperne di più, chiamateci, ma passiamo al colesterolo, no? Il colesterolo lo sappiamo che si fa in tre, c'è quello totale, quello buono e quello cattivo. Per la sindrome metabolica viene considerata la frazione buona. Esatto. Che deve essere, ecco, che deve essere alta rispetto a quella naturalmente del colesterolo cattivo. Ma prima di raccontare e darci delle indicazioni, vorrei sentire Anna, che ci chiama da Torino all'800 24 00 24, che con la sua domanda aggiunge sicuramente un dettaglio che può fare la differenza. Pepe, buongiorno alla trasmissione. E Pepe alla trasmissione. Anna, pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Torino. E volevo, la mia domanda era appunto sul colesterolo. Ho fatto l'esame del sangue, ho il colesterolo a 2,90. La mia dottoressa, la prima cosa che mi ha detto è di prendere subito delle pastiglie a base di statina. Io mi sono un po' opposta, perché prendere anche le pastiglie per il colesterolo non riuscivo proprio a capire. Tutti gli altri livelli andavano bene e quindi mi sono curata con riso rosso fermentato. Rifacendo gli esami dopo alcuni mesi è sceso a 2,20. Quindi volevo appunto fare questa domanda. Non è sempre necessario prendere farmaci per un colesterolo che magari dovuto, io ripeto, non sono in sovrappeso e ho un'alimentazione abbastanza, non so perché ho il colesterolo alto, comunque abbastanza sana, ecco. Grazie. Questa Anna. È la mia domanda. Grazie. Allora, grazie Anna, continui a seguirci. Noi adesso passiamo la linea naturalmente a Deborah, andiamo a controllare i mercati. Tra poco parleremo anche di pressione, oltre che di colesterolo. La pressione in diverse occasioni i nostri esperti ci hanno raccomandato di ridurre le aggiunte, no? Di pizzichi di sale nella nostra dieta. E vi voglio proprio segnalare che da ieri fino al 6 marzo ricorre la settimana mondiale per la riduzione di sale, promossa proprio dall'associazione, da un'associazione mondiale, partner 95 paesi. Anche noi a Cuore Denari abbiamo delle indicazioni da darvi riguardo alla riduzione del sale, quindi potete scriverci e noi giorno per giorno avremo tanti consigli, ogni giorno un consiglio per ridurre il sale, quindi utilizzando le spezie, giocando magari su alcuni abbinamenti, contribuiamo, anche se non è solo la riduzione del sale a far scendere la nostra pressione, ma di questo parleremo naturalmente con la nostra esperta, anche di colesterolo, analizzeremo il caso di Anna e anche del peso, su cui pesano anche le notti insonni. Quindi Deborah, mercati e poi sono andiamo. Sono pronta, tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Cuore e Denari. Bentornati a Cuore e Denari. Sì, parleremo di pressione, ma non solo, vogliamo parlare anche di circonferenza addominale. L'avete misurata? Provate a farlo e chiamateci all'800 24 00 24. Vi daremo i numeri, parleremo ancora di trigliceridi e di colesterolo. Colesterolo buono, colesterolo cattivo, colesterolo totale. Oggi infatti parliamo della sindrome metabolica. In linea con noi la dottoressa Pasanisi dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Dottoressa Pasanisi, ritorniamo alle dolenti note. Colesterolo, sappiamo che esiste una frazione buona e una frazione cattiva. Nella sindrome metabolica, per la sindrome metabolica ci concentriamo sui livelli del colesterolo buono, che devono essere elevati. Allora, in generale il colesterolo buono, che è il colesterolo HDL, deve essere al di sopra dei 50 mg decilitro. Se è al di sotto è considerato un fattore di rischio e quindi un fattore di sindrome metabolica. Riferendomi, diciamo, alla telefonata dell'ascoltatrice di Torino, è il colesterolo totale da solo può non necessariamente essere un buon indicatore del rischio effettivo cardiovascolare, perché è importante avere appunto il valore del colesterolo totale, ma anche del colesterolo buono o del colesterolo cattivo, perché il rapporto tra il colesterolo LDL, che è quello cattivo, e il colesterolo buono, appunto l'HDL, è quel qualche cosa che ci permette di in qualche modo quantificare il rischio cardiovascolare. Quindi certamente un'alimentazione a rischio per aumentare, diciamo, il colesterolo cattivo è un'alimentazione di nuovo molto animale, ok? In particolar modo caratterizzata dall'assunzione di carni rosse, in particolar modo carni rosse conservate, quindi tutti gli insaccati, ok, che sono particolarmente a rischio in questo senso, ma anche un'alimentazione ricca in formaggi, ok, soprattutto se consideriamo i formaggi estremamente stagionati, che sono un fattore di rischio per il colesterolo. Dottoressa Pasanisi, ma la nostra amica ci ha raccontato che con il riso rosso Il riso rosso fermentato ha abbassato i livelli di colesterolo. Questa è una cosa che succede, nel senso che il riso rosso fermentato ha queste proprietà e può essere utilizzato quando chiaramente i valori di colesterolo sono comunque non elevatissimi. La nostra ascoltatrice aveva comunque dei valori di colesterolo totale inferiore ai 300. In generale, quando sono molto superiori ai 300, vuol dire che c'è qualcosa in più, ok? Spesso sì. Che non dipende solo dalla cattiva alimentazione, ma anche da un'eccessiva produzione, ok? Che può essere legata a caratteristiche genetiche di tipo familiare. Quando sono al di sotto dei 300 mg decilitro, invece probabilmente c'è un effetto della dieta o dello stile di vita in generale, ok? Perché anche in qualche modo con l'attività fisica si può agire sul colesterolo, in particolar modo aumentando il colesterolo buono, il colesterolo HDL, e riducendo l'altro, ok? Ma ci sono degli alimenti, dottoressa, che aiutano ad aumentare il colesterolo buono? Ma guardi, in generale una cosa che si può fare è cercare di avere una dieta mediterranea, ok? Perché nella dieta mediterranea abbiamo l'olio extravergine d'oliva, ok? Che ha degli effetti positivi rispetto al colesterolo, abbiamo la frutta secca che, a discapito di quello che pensa la maggior parte delle persone, ha un effetto positivo sul colesterolo. La la dieta mediterranea è comunque una dieta prevalentemente vegetale, con tra i prodotti di origine animale abbiamo prevalentemente il pesce, che con i suoi grassi buoni aiuta in questo caso il buon funzionamento del colesterolo, in particolar modo del colesterolo buono, dell'HDL, ed è una dieta poi invece povera appunto di tutti quei prodotti, con le carni rosse conservate, eccetera, che sono invece degli alimenti che favoriscono invece l'aumento del colesterolo cattivo. Per cui in generale un'alimentazione mediterranea, vicino appunto alla tradizione mediterranea povera, quella di una volta, ok, quindi un'alimentazione prevalentemente vegetale, con cereali poco industrialmente raffinati, legumi, verdura, frutta, un pochino di pesce, pochi altri prodotti di origine animale, può essere considerata protettiva, a maggior ragione se con olio extravergine d'oliva, che ha un effetto protettivo sul colesterolo. 800 24 00 24 per intervenire in trasmissione e anche per raccontarci, come ha fatto la nostra amica, con che stratagemma siete riuscite a portare i valori ottimali questi indicatori di cui stiamo parlando. Yolanda, buongiorno, ci chiama da Palermo, è caduta. Vabbè, niente, speriamo. Dottoressa, intanto, sì. Prima di parlare di pressione, di ipertensione in questo caso, è possibile che in un soggetto che, in cui vengono a trovarsi questi fattori di rischio, succeda una sorta di fattore, cioè rischio chiama rischio, vale a dire che trovandosi il soggetto in sovrappeso oppure con il colesterolo elevato, come un granello di sabbia, vada a in qualche modo mettere in discussione la funzionalità di questo ingranaggio magnifico che è il nostro metabolismo, e quindi creare poi a catena tutti questi problemi? Ma questo è sicuramente possibile, nel senso che normalmente uno stile di vita appunto caratterizzato da una scorretta alimentazione, da scarsi livelli di attività fisica, nel tempo porta inevitabilmente, ok, a far insorgere sovrappeso, obesità, a far funzionare male l'insulina, ok, che è l'ormone chiave del nostro metabolismo. Cioè, quando noi parliamo di sindrome metabolica, parliamo di una sindrome che è fondamentalmente legata alla resistenza all'insulina, è una sindrome da resistenza all'insulina. Il grasso addominale è proprio un indicatore del grasso che si deposita nei nostri organi interni, in particolar modo intorno al fegato, che è uno dei principali fattori di resistenza all'insulina. E se c'è la resistenza all'insulina aumenta la glicemia, ma nel tempo peggiorano anche i grassi. Ovviamente le persone comunque che fanno scarsa attività fisica e sono comunque sovrappeso o obese tendono ad avere valori pressori molto più alti, anche certo. La pressione dipende da tanti fattori, e quindi quello che diceva lei è assolutamente corretto, nel senso che nel momento in cui comincia un po' come le ciliegie, una tira l'altra, quando iniziamo ad andare giù e via, quindi dobbiamo cercare di arrestare. Forse, dottoressa, la richiamiamo, vero che dalla regia mi dicono che cercano di ripristinare il contatto, quindi dottoressa Pasanisi continui a seguirci, ma metta giù la cornetta che la richiamiamo. Intanto noi andiamo a chiacchierare un po' con le nostre Yolanda, amiche, e poi Marzia da Milano. Yolanda, buongiorno. Buongiorno. Intanto buongiorno. Da Palermo, e quindi lei avrà un sole straordinario. Sì, io infatti sono qui, faccio la mia passeggiata mattutina. Naturalmente porta la radio con sé per ascoltarci. Sì, io vi ascolto tutte le mattine, Radio 24, per me tutti i programmi di Radio 24, ma in particolare la sua, ecco, e stamattina in particolare. Perché c'è un argomento che la tocca da vicino. In realtà Yolanda ci tocca tutti da vicino, perché stiamo parlando di indicatori, di fattori di rischio che, sui quali è sempre bene monitorare, certo, no? Ma poi non esiste una persona senza pressione o senza colesterolo, di cui parliamo tra l'altro sempre male, ma in realtà delle funzioni molto importanti. Ma Yolanda, intanto la dottoressa Pasanisi è ancora in linea con noi, vero dottoressa? Esatto, sì, sono tornata in linea perché non era persa. È tornata in linea, lei sarà in linea, dottoressa Pasanisi. Ma Yolanda, allora, dopo tutti questi complimenti è arrivato il momento di interrompere la nostra chiacchierata, ma riprenderla subito dopo le informazioni sul traffico. Voilà. Cuore e denari. Per ogni matematico che non si è mai pentito, Eh sì, oggi dobbiamo fare i conti con i nostri numeri. Lo abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione insieme agli esperti di Deborah sul conto corrente. Adesso facciamo i conti con il nostro girovita, lo faremo tra poco, il colesterolo, la pressione, i trigliceridi e chi più ne ha, chi più ne metta. In due parole parliamo di sindrome metabolica. In linea con noi abbiamo Yolanda da Palermo e la nostra esperta, la dottoressa Patrizia Pasanisi, pronta a darci delle indicazioni e dei preziosi consigli. Yolanda, allora, torniamo a noi. Sì, allora, io volevo chiedere alla dottoressa, io ho 57 anni e tre anni circa che sono in menopausa e mi sono accorta appunto dall'inizio della menopausa che il mio girovita, malgrado io assuma un'alimentazione, come si dice, mediterranea, quindi anche il movimento, non manca niente, però vedo che il girovita piano piano ha cominciato ad allargarsi. Volevo chiedere alla dottoressa se questo è dovuto alla menopausa, è forchetta ormone, ecco, grazie, per diminuire, perché io non ingrasso in nessun'altra parte del corpo, quindi che tipo di alimentazione devo assumere? Grazie Yolanda, perché questo è un problema molto frequente, soprattutto in menopausa. Le donne distribuiscono il grasso in modo differente, quasi diventando simile a una distribuzione maschile. Esattamente, provo a spiegarlo in modo semplice. Quello che lei ha detto è proprio quello che in realtà si verifica, nel senso che nel momento in cui le ovaie cessano di produrre ormoni femminili, quindi estrogeni, in proporzione aumentano gli androgeni che continuano ad essere prodotti sia dall'ovaio sia dal surrene. Per cui quello che effettivamente succede è un proprio cambiamento dell'assetto ormonale, e quello che succede cambia anche, tra le varie cose, la deposizione del grasso a livello del corpo, e si depone il grasso in particolar modo a livello addominale, esattamente come è più frequente ovviamente negli uomini. Ovviamente questo è uno dei cambiamenti che si verifica. Diciamo che uno studio che ha osservato le donne nel periodo prima della menopausa, dei 5-6 anni precedenti proprio alla cessazione del flusso mestruale, e le ha osservate anche dopo la cessazione appunto del flusso mestruale per altri 5-6 anni, ha proprio spiegato che nel corso di questi 10-12 anni di cambiamento aumenta la circonferenza vita, aumentano i trigliceridi, il colesterolo buono, che è l'HDL appunto, che è alto per azione degli estrogeni fino alla menopausa, poi si riduce, la pressione arteriosa tende ad aumentare fino a raggiungere un plateau, quindi fondamentalmente quattro fattori di sindrome metabolica tendono ad aumentare e ad essere più frequenti proprio nel momento in cui la donna passa in menopausa. Quindi questo è un motivo in più, proprio nella perimenopausa, nella menopausa vera e propria, un motivo in più per fare particolarmente attenzione al proprio stile di vita, muovendosi di più, ok? E cercando, come dicevamo già prima, di seguire un'alimentazione il più possibile vicina a un'alimentazione che tiene bassa l'insulina, la fa funzionare bene. Quindi pochissimi zuccheri semplici. Se mangiamo appunto cereali, mangiamoli integrali, ok? Sì. Prevalentemente mangiamo vegetale, cerchiamo di assumere le proteine prevalentemente dai prodotti d'origine vegetale, quindi per esempio dai legumi, ricordando che comunque non ne possiamo mangiare enormi quantità, perché anche la quantità ovviamente è importante, e cerchiamo di ridurre appunto il resto della componente animale. E farci un po', di passeggiatine in più, dottoressa. Allora, dottoressa, io analizzerei rapidamente gli altri due fattori. Una è la pressione, abbiamo ricordato che proprio da ieri fino al 6 marzo ricorre la settimana mondiale per la riduzione del sale, e a Cuore Denari, se volete farvi accompagnare in questo, no, nella riduzione, nell'aggiungere meno pizzichi, potete scrivere una mail a Cuore Denari e vi daremo il link dove potete trovare i riferimenti per seguire una dieta meno ricca di sale in un progetto progetto che avevamo fatto negli anni scorsi, l'avevamo chiamata qualche pizzico in meno, tanta salute in più. Dottoressa Pasanisi, non è naturalmente solo il sale che fa aumentare la pressione, ma in Italia se ne assume il doppio di quello che è considerato l'obiettivo, no? I 5 grammi al giorno per persona. In Italia ne consumiamo molti di più, e allora da qui in questa iniziativa a disposizione per Cuore Denari. Intanto ricordiamo i valori pressori. Allora, in generale una pressione arteriosa superiore a 130 su 85, quindi 130 di massimo, 85 di minima, è considerato appunto un valore già rischio metabolico, ok? Certo. Si è parlato, diciamo, del sale, è molto importante cercare di non aggiungere sale agli alimenti più del necessario, ovviamente, ma io voglio ricordare che le principali fonti del consumo di sale spesso sono il pane, le focacce, le pizze, per non parlare degli affettati, ok? Quindi è importante. Non è tanto quello che uno aggiunge, lei dice, ma di quanto uno è lo sfilatino che ci facciamo con... Assolutamente, certo. Perché se poi uno fa, magari, faccio un esempio estremo, magari non sala neppure l'acqua della pasta, ma magari mangia una focaccia con dentro il prosciutto crudo, ecco, ovviamente sono dei sacrifici inutili. Comunque ricordiamo, poi, sì, i valori sono 130-85. Esatto, è importante ricordare che comunque il modo più, diciamo, non è solo l'alimentazione, ma l'attività fisica è molto importante nell'abbassare la pressione arteriosa, di nuovo. Funziona molto bene l'attività fisica. E la perdita di peso, nel senso che la perdita, ogni perdita di 4-5 kg si associa anche a una riduzione di millimetri di mercurio, diciamo, di pressione. Quindi la riduzione del peso è anche un altro fattore di prevenzione importante per l'aumento della pressione. Allora, ha parlato di peso, andiamo al girovita, la panza, il panzetta, girovita, panzone, o in modo più elegante alla circonferenza vita, che sembra un po' la cartina tornasole dei nostri gusti a tavola, se così possiamo dire. Ci sono due numeri che ci servono di riferimento, non oltre, allora, 102 nei maschi e 88 nelle femmine. Esatto, considerate che questi erano i numeri della primissima definizione di sindrome metabolica, che è quella che stiamo dando fondamentalmente. È importante ricordare che attualmente la Federazione Internazionale del Diabete tende addirittura a ridurre questi centimetri di circonferenza vita come fattore di rischio, portandoli per le popolazioni europee, tra cui ci siamo anche noi, a sotto 80 per le donne e sotto i 94 per gli uomini. Ok? Considerate, sì, che però la Federazione Internazionale del Diabete considera dai 16 anni in poi, quindi chiaramente persone, diciamo, di 50 anni sono ben diverse ovviamente dalla popolazione dei ventenni, ok? Però diciamo di cercare di stare comunque al di sotto degli 85 centimetri per le donne, al di sotto dei 100 centimetri per gli uomini, probabilmente è già un qualcosa di importante. E la circonferenza vita è proprio l'indicatore del buon funzionamento dell'insulina. Se il giro vita è ampio, vuol dire che c'è resistenza all'insulina, e vuol dire quindi che c'è quel fattore che poi via via porta ad aumentare anche tutti gli altri fattori di rischio metabolico, quindi bisogna fare particolarmente attenzione. Ci scrive Marisa su WhatsApp, 65 anni, alto 1,60, peso 55 kg, stavo diventando cilindrica, Deborah. Ho ritrovato il giro vita abolendo il glutine, eliminando latticini e riducendo anche la frutta, una grande rinuncia, però aumentando la verdura, e ci specifica no patate. Provare per credere. Dottoressa, in chiusura di trasmissione vogliamo parlare con lei di un progetto che il dottor Berrino dell'Istituto dei Tumori, con il quale lei lavora, ci ha già anticipato in una precedente puntata di Cuore Denari, che ha riscosso molto successo e soprattutto tanta curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Si chiama progetto Me, tre volte me. Sono tre volte me. State cercando uomini e donne di 55 anni o più che hanno la sindrome metabolica e che sono interessati naturalmente a farla regredire, a perdere peso, a stare meglio o a prevenire malattie più gravi, no? Esattamente. Allora, la sigla Me è un acronimo per dieta mediterranea, metformina e sindrome metabolica, cioè l'obiettivo dello studio è prevenire in persone sane che però hanno la sindrome metabolica, di prevenire lo sviluppo di tutte le malattie croniche legate all'età, quindi le malattie cardiovascolari, ma anche i tumori, il diabete, ovviamente le demenze, eccetera, attraverso una modifica del proprio stile di vita, cioè cerchiamo di riscoprire la dieta mediterranea vera, ok? Sì. E attraverso l'utilizzo di un farmaco che è la metformina, che è un farmaco in uso da più di 50 anni per il trattamento del diabete di tipo 2, sì, ma che è un farmaco che agisce in modo simile alla dieta, perché agisce sulle vie di restrizione calorica. Allora, okay? Per tutti i riferimenti, voi il reclutamento volontari, esatto, chiuderà nel 2018, quindi abbiamo tempo. Abbiamo tempo. Ma chi ha tempo non aspetti tempo. Persone, quindi bisogna, insomma, comunque darsi una mossa in questo senso. È importante la collaborazione di tutti. Considerate che attualmente questo è uno studio unico in Europa, ok? E in realtà attualmente anche unico al mondo, anche se è stato già lanciato negli Stati Uniti uno studio simile a questo. Questa è proprio una sperimentazione. Vogliamo fare prevenzione primaria attraverso dieta mediterranea e metformina su persone che hanno la sindrome metabolica e che quindi presumibilmente attraverso un cambiamento dello stile di vita ridurranno ovviamente la sindrome metabolica. Se quindi, si hanno superiore ai 55 anni e un po' di pancetta, si è fortunati, perché questa può essere una buona occasione per dare una svolta al proprio stile alimentare con ricadute positive sulla propria salute. Esatto. Quindi cerchiamo di far calare il giro vita e questo è un ottimo cambiamento. No? Anche partire proprio dalle piccole cose. Ma a proposito di cambiamenti, in chiusura vorrei dire che oggi c'è un grande cambiamento, no? Parte la classica ricetta rossa, se ne va per dare spazio alla nuova ricetta elettronica nazionale. E allora proprio a questo tema è dedicato il nostro approfondimento di oggi, che potete trovare naturalmente sulla pagina di Cuore e Denari. Per tutte invece le informazioni del progetto, che lo ricordiamo, sindrome metabolica, dieta mediterranea e metformina, potete trovare tutte le indicazioni e i riferimenti sulla pagina sempre di Cuore Denari, in modo che possiate nel caso arruolarvi. Ma ricordate, dovete avere un'età superiore ai 55 anni e dovete avere un po' di pancetta. In questo caso aiuta, dottoressa. Perché vi dà la possibilità di partecipare a questo progetto. Vedi che non tutto il male viene per nuocere. Esatto. Dottoressa Pasanisi, la ringraziamo per essere stata con noi. Grazie. Torneremo a parlarne insieme al dottor Berrino, che ringraziamo anche lui e salutiamo per questo bel progetto. Noi stiamo andando verso la chiusura. Consentimi, Nicoletta, volevo solo spiegare una cosa ad un'ascoltatrice che ci scrive in privato, che si lamenta del fatto che diamo sempre il numero per scrivere gli SMS, il numero verde, ma non diamo mai il numero per scrivere messaggi WhatsApp. Allora a me non sembrava necessario dover specificare che siete voi che dovete cercare sul telefono il canale con cui scriverci, ma il numero è lo stesso, però evidentemente bisognava dirlo. Grazie. Bene, così come vi ricordiamo che domani siamo in onda. Per noi non è necessario dirlo, ma magari per qualcuno sì. A domani alle 10:30.